10:57 sulle libere frequenze di Radio Blackout, 105.250, per chi si è appena sintonizzato. Siete all'ascolto di Parole Ribelli, che comincia una nuova puntata e vi accompagnerà fino alle 12:45. E allora ricordiamo i contatti di Radio Blackout, 105.250, 011-2495-669 per chiamarci, 346-6673-263. Per scriverci e per il servizio Cisti, viaggiare informati. E allora andiamo subito a presentare gli argomenti di questa puntata. Oggi parliamo un po' di Calais, come annunciava Maria nell'Inf. Andremo a collegarci con dei compagni che erano presenti al corteo giorni scorsi e ci faremo un po' raccontare, appunto entreremo anche un po' nel dettaglio di questa situazione, di questo precedente che si sta creando con il fermo delle ragazze comunitarie, non che sia più grave delle difficoltà che tutti i giorni si trovano ad affrontare coloro che tentano, diciamo, la traversata per una vita migliore, ma è evidente che stanno crollando, diciamo, anche i presupposti delle loro stesse leggi, e allora ci metteremo in contatto con i compagni francesi per capirne un po' di più. Poi andremo a commentare un po' di cronaca locale, cosa succede alle tasse in accademia, insomma, continua, diciamo, nonostante il diritto allo studio sia stato smantellato tempo fa, continua il l'attacco direttamente nelle tasche degli studenti. L'ultima trovata è quella di far pagare le tasse anche a chi riceve la borsa di studio, che evidentemente riceve la borsa di studio perché non può pagare le tasse, quindi diciamo con una mano, anzi la borsa di studio neanche coprirebbe il totale della quota. E andremo poi a presentare la campagna Libertà di Studiare, c'ho una panoramica purtroppo tra le peggiori su come vengono trattate le lotte in questo paese, che siano dentro fuori l'università, che non importa, comunque la risposta è sempre una. E allora adesso, come al solito, un po' di pop ci accompagna nella mattinata e poi entriamo nel vivo della puntata. Cortinas, enciendan las turbinas con nitroglicerina. El desorden es tu penicilina, brincando curas los dolores sin aspirina. Vamos a provocar un cortocircuito antes de que en el 2012 caiga un meteorito. A portarnos mal, a cometer delitos, a comernos a Caperucita con los tres cerditos. Esto no se trata de rebeldía, esto se trata de ser indisciplinado por un día. Los incomprendidos del Nuevo Testamento, tenemos nuestras reglas, nuestros propios mandamientos. Como no comprenden nuestro comportamiento, a todos los psicólogos les damos tratamiento. Para romper con la rutina repetitiva, que el sol salga de noche y que llueva para arriba. Nos quieren controlar como a control remoto, pero la autoridad no puede con nosotros. Nos gusta el desorden, rompemos con las reglas. Novia en despedida de soltera, vamos a portarnos mal, pero con dignidad. Vamos a hacer que Susan Boyle pierda su virginidad. Somos diferentes, nada de lo que se espera, como una naranja con sabor a pera. No somos clones, no somos imitaciones. Hoy vinimos a hacer lo que no se supone. Contar un cuento sin narrativa, mirar el cielo, patas para arriba, como los árabes que escriben al revés. Con el pie izquierdo empieza el día, levanta. invita tu cerveza a brindar por la anarquía. Mamá huevazo, vuela sin techo, defiende tu derecho de hacer lo que no has hecho. Nos gusta el desorden. E 03, andiamo avanti con la mattinata di Radio Blackout. E allora, come dicevamo in apertura di puntata, andiamo un po' a parlare di Calais, ma soprattutto appunto di quello che è successo recentemente. La Calais, nota alle cronache, diciamo, come anche mainstream più recenti, per la presenza della cosiddetta jungle, diciamo una sorta, diciamo, di piccola città, poi di fatto, perché così si era strutturata, che data a cui aveva, diciamo, costruita da tutti coloro che in transito in Francia puntano ad arrivare in Inghilterra. Allora, diciamo, la jungle è stata sgomberata la settimana scorsa, sgomberata diciamo dagli stessi che l'avevano creata, perché poi relegare la presenza di migranti ai margini non solo, diciamo, sociali ma fisici della Francia, poi era stata la polizia stessa, le forze dell'ordine stessa, quindi lo stesso governo che poi ha mandato quelle stesse forze dell'ordine a sgomberare la jungle. Allora, questo, diciamo, qual è anche il pretesto, quello di andare a trasferire la presenza di questi migranti in strutture adeguate. Per strutture adeguate il governo francese intende dei container, sostanzialmente container circondati da filo spinato, sul modello anche già avviato tedesco, per esempio. Quindi, diciamo, appunto, sono stati sgomberi coatti e poi hanno costruito questo campo legale il cui accesso è, diciamo, ha come presupposto il sottoporsi a scansioni biometriche. Quindi i controlli biometrici fanno sì che poi diciamo nessuno si possa separare dal proprio corpo. Il livello di controllo che poi si va ad attuare sulla persona è abbastanza spaventoso. E a seguito di questo sgombero, domenica 24 gennaio c'è stato un grandissimo corteo composto da migliaia di persone che hanno risposto all'appello dei migranti che erano accampati nei dintorni di Calais. Un corteo che è partito dalla jungle stessa, che poi ha percorso le vie della città, un corteo che ha in qualche modo dimostrato e praticato la piena solidarietà ai transitanti, perché grazie anche, diciamo, alla convergenza di tutti quei corpi che hanno creato un diversivo, tanti e tante sono riusciti a scavalcare quel filo spinato. Allora, questo, la polizia non è andato giù ed è intervenuta in maniera molto violenta contro, con cariche e lanci di lacrimogeni. Durante, appunto, durante la manifestazione anche sono proseguite anche provocazioni di fascisti che avevano, diciamo, hanno caratterizzato la vita nella jungle da che essa esiste, e sempre perfettamente tollerate dalla polizia. Appunto, dopo l'aggressione della polizia che ha colpito anche un rifugiato siriano che è stato è stato colpito da una manganellata, ha avuto anche un infarto, adesso diciamo è fuori pericolo, la polizia è intervenuta addirittura sul traghetto che diciamo sul traghetto su cui alcuni erano riusciti ad arrivare, ma lo scenario un po' inedito è quello della fermo di queste tre studentesse, non tanto appunto perché la Francia non abbia mostrato già altre volte il suo vero volto, quanto perché perché le ragazze sono di fatto poi cittadine comunitarie e non dovrebbe, in teoria, diciamo, la procedura fa sì che per loro non dovrebbe subentrare quello che sta accadendo. Allora adesso andiamo avanti con un po' di musica e poi ci mettiamo in contatto con i compagni francesi. E allora, come dicevamo, andiamo avanti, ma invece di collegarci subito con Parigi, facciamo un attimo un salto a Torino, al presidio sotto al Palazzo di Giustizia. Stamattina, infatti, sotto al Tribunale, è in corso il presidio delle famiglie, dello spazio popolare del Neruda. Non potete misurare i nostri passi, sono le parole con cui sono in presidio sotto, appunto, al Palazzo di Giustizia. Non potete misurare i nostri passi, non potete interrompere il nostro cammino con delle misure cautelari. Questo è il senso dello slogan, questa è, diciamo, la pratica che poi tutti i giorni dentro lo spazio popolare si porta avanti. E allora andiamo a sentire un attimo i compagni e le compagne, gli occupanti e tutte le famiglie che ci sono presenti. Ci sentite? Sì, ciao a tutti e a tutti. Ciao Lorenzo, allora, un po' la panoramica un po' appunto è quella che dicevamo prima, che è stata detta anche, diciamo, anche nei giorni scorsi, se ne è parlato sulle libere frequenze su 105.250 a seguito di una resistenza a uno sfratto quest'estate. Sono arrivate, diciamo, è scattata un'operazione di polizia che ha portato all'espulsione da Torino di tanti compagni, di tre compagni, e all'obbligo di firma ad altri. Ora, diciamo, l'udienza di convalida di queste misure è in corso al Tribunale, e altrettanto, diciamo, presente, come del resto ribadisce da un po', è la determinazione degli occupanti. Se ci racconti un po' qual è la situazione, cosa succede e se ci sono aggiornamenti anche da dentro l'aula. Allora sì, l'udienza di convalida, come dicevi, in realtà era in corso fino a poco fa e adesso è finita, anche se non c'è la decisione definitiva. Comunque promette abbastanza male, insomma, GIP e PM sono i soliti che si sono fatti si sono costruiti la propria carriera proprio nel reprimere chi lotta in questa città, quindi insomma non c'è niente di buono da attendere, anzi quasi sicuramente a quanto ci dicono le misure saranno confermate. Tra parentesi vi segnalo anche che sempre oggi c'era sempre un altro riesame per un altro compagno, Mattia, che si trova agli arresti domiciliari dopo una manifestazione contro la Lega Nord nel febbraio scorso, e anche a lui, con si trova ai domiciliari con tutte le restrizioni, anche a lui sono stati confermate tutte le restrizioni, arrivando a dei livelli di ridicolo per cui non può non soltanto non andare a lavorare, ma neanche andare a ritirare il proprio stipendio in banca, quindi un accanimento completamente grottesco da parte della procura, di qualche GIP connivente. Adesso siamo partiti in corteo dal tribunale, tutti insieme, con i compagni, con le famiglie dello spazio popolare Neruda, uno stabile che è stato occupato ormai qualche mese fa per rispondere all'emergenza abitativa della città di Torino, e organizzarsi, visto che sicuramente le istituzioni non lo faranno al nostro posto. Siamo diverse centinaia, adesso siamo appena passati da Piazza Statuto, forse avete sentito, c'è stato un attimo un momento di tensione con un autobus che non si è voluto fermare, ma insomma il morale è alto, il messaggio che volevano far arrivare era quello di spaventare la resistenza contro gli sfratti, spaventare chi si organizza contro la crisi, italiani e stranieri insieme, chi ha capito che il problema sono quelli che stanno sopra, ma sicuramente il loro tentativo è fallito, anzi, come mi diceva un occupante prima, tanto questo genere di messaggi ci entrano da un orecchio e ci escono dall'altro. Bene, perfetto. Lorenzo, grazie mille. Queste sono, diciamo, a parte quello che viene da dentro al palazzaccio, che come al solito sono cattive notizie, quello che c'è fuori invece lascia ben sperare. Allora, grazie mille. Se ci sono aggiornamenti, 105.250, le libere frequenze di Radio Blackout rimangono in ascolto. E sapete... Un saluto a tutti e a tutti. Ciao. Grazie mille. E allora ricordiamo il 346-66-73-263, giustamente a questo numero ci ricordano che non è la prima volta che, diciamo, rispetto a quel che dicevamo su Calais, che compagni e compagne, anche appunto cittadini comunitari, ricevono questo trattamento. Assolutamente la cosa che è un po' che ci interessava era leggere un po' questo accadimento nel quadro dello stato d'emergenza della Francia, che comunque appunto è da ben prima degli attacchi di Parigi, da ben prima di tutta una serie di eventi che hanno inasprito la situazione, uno stato coloniale tra pensi con sistema detentivi tra i più tra i peggiori, e su questo proprio non ci piove. Day off. Turn me up on the top a little bit, dawg. Want them to know, want them to hear this one. Loud and clear, bright and early. Listen, I don't hate players, I don't love the game. I'm the shot clock, way above the game. To be point blank with you, motherfuck the game. I got all this work on me, I ain't come for play. You can show the little shorties how you bump and fake, but dawg, not to death, I'm not impressed, I'm not amused, I'm not confused, I'm not the dude, I'm grown man minutes, I am not in school. Put your hand down, youngin', this is not for you. On my J.O. with Beats by Kanye, yo. My name on the market, your name off the payroll. Style fresh like I'm still a day old. And it's been like that since the day old. I'm on time with a rollie, a Seiko. Step on deck, your neck, do what I say so. Get up or get out, get down or lay low. Standing in the shadow of a fabulous man. Brooklyn nigga, I am. That nigga, that dude. Black people, let's move. Shout out to my man, Talib Kweli. Yes, we got topper, topper. Shotta, shotta, check it out. Slim nigga to cast a big shadow. Cherokee red to shoot the long arrow. Got more skill, more aim, and more ammo. You can get it all from a big or small barrel like Hail Mary, full of grace. Niggas come in and shoot up the place and make it pull up your face. The deck, I'ma pull out the ace. From the jungles of the Empire State, where ain't no escape. 247-718, and that's like every night, every day. From the place that I settle and stay, to the states I'm collecting my pay. Blast off, then I'm back to the K. Hold it down, so my family straight. Represent in a family way. Pro ball, not for amateur play. Been rolled since the amateur stage. Before the press had the cameras raised. Like a long time handle away. You understand me straight? Yes, no yes. Doubt. Excellent. It's what it is, it's what it is, and that's what it is. See? Ha. Fire! Cause it is deeper, sweeter, richer, crisper. Stronger reception and sharper picture. Revolve around God and involve with niggas. These elements help evolve my scripture and make most death a classic modern figure. Brooklyn, it don't matter if you holler or whisper. You're coming through clear cause I'm right here with ya. Ain't got an energy slang, I got it, I get ya. Yo, brothers and sisters, fathers and mothers, the lovers, the leavers, the doubters, believers, the slayers, the quitters, the bitches, the niggas, rebel gorillas, the ghetto civilians. Y'all can feel it from the first to the millionth, it's extra. Ordinary and plain, I walk 1,000 paces of light ahead of the game. By the time you get where I'm standing, I'll be gone. Y'all make moves, but y'all just move wrong. I move in and y'all must move on, cause I move too strong. And I know what my feet move for. Make it go without a brand new car. I was fresh without a brand new song. I give a fuck about what brand you are. I'm concerned what type of man you are. What your principles and standards are. You understand me, y'all? Be good to your family, y'all. No matter where your families are, cause everybody need family, y'all. Raise a hand, you understand me, y'all. Everybody need family, y'all. Be good to your families, dawg. Understand. No matter where your families are, everybody need family, dawg. Raise your hands, you understand me, Paul. That's what it is. My man. Family of my family, Pistol P. My man, too. All our loved ones behind the wall. All of those still in the struggle. Sada Mumia, Sundiata, Man Jamel, Life is Real. All the real soldiers, black people, family, y'all. Let it be right. Unlimited trouble, baby. G, mi sale l'anima negli occhi solo a pensarci. Sul parche lucido, i graffi dell'arma Max 2 CB, il coach chiama la 10 a 5, quelli più scarsi, a fondo campo a farsi i suicidi, rap sui CD, già lo spingevo quando averci le composite era un lusso, con gli occhi punti, con le dita giuste e col polso frusto, del mio rapporto con i fantasmi ho già discusso, zaino protonico, attento a non incrociarmi il flusso, Sasha Danilovic, tiro da 4 andata a casa vostra, con un mattone a tabellone. Dritto dalla posta è blu, più strago della bossa, prova a rimetterci i palloni nella borsa. La palestra è vuota se non corri i geli, dalla lunetta parli al ferro e lo prendi. Oggi è l'ultimo a lasciare il campo, come ieri, il primo ad arrivare in fondo, come ieri. Fermo con la testa su aspettando che accada, nel cielo le parole sono come palloni rimasti in aria. Prendi il sogno, fallo tu una volta sola, oggi che si impara più dal rap che dalla scuola volo. Ma sto incollata a questi fogli in questa direzione, solo l'invidia uccide la competizione. Poi lo so, la merda accade, le cose non si muovono da sole. Che cosa vi insegnano dalle suore? Dentro è rimasto grande, fuori c'è una guerra più importante. C'è un treno che scappa ed uno che parte. La tua faccia, la tua verità, sarei quello che serve. Ma pure senza gravità rispetterei le regole. Siamo numeri di spalle in questo campo, tipo chi ti dà le spalle in questo campo. Stanco del passato perché un giorno vale un altro. E se è vero che conta dove stai andando, tu stai andando forte, bro. L'istante infinito, nell'attesa della contesa, questione d'elevazione, ascesa, visione periferica, scivoli in difesa se giochi la domenica, fanculo e sabato in discoteca, background, underground, in strada tutte le sere, senza sapere si chiamasse playground, poi le partite vere, prima degli altri, alcuni infortuni spezzano carriere, prima degli arti, occhi alti, occhio ai passi, il fuori classe lo distingue dagli assi, la vita serve pochi aliupe, se spacchi vince tutta la squadra, non tu. I love this game, sognavo l'NBA, ogni minuto un bianco in quel campo, numero 7, Tony Kukoc, e se il sudore ti stacca dalla panchina, ora siedo sul tabellone, tu non arrivi alla retina. Prendo il microfono a metà campo, tu chi sei, clown? Dov'è la tua corona, re del playground? Sui beat arte, senti il peso, maestro, dal vivo vedi Vince Carter appeso al canestro, ah? Palleggio con i versi, ok, che dici, ah? Sugli spalti già senti l'elettricità, complicità, gioco di squadra, è in modo che la mia squadra dia show in ogni città, flow serie A, a.k.a. serietà e allenamento, le mie scarpe nuove strillano a tempo sul pavimento, rap è il mio sport, sul mix passione e divertimento, mix di competizione e intrattenimento, proprio come giù al campetto, nel mio quartiere i ragazzi mi portano rispetto, per come sono e per come rap, ok, ogni vittoria è per i miei e per i miei fratelli, MJ, datemi 5 anelli. E 26 sulle libere frequenze di Radio Blackout 105.250, per chi si fosse appena sintonizzato, siete all'ascolto di Parole Ribelli. E allora andiamo avanti, come dicevamo appunto in apertura di puntata, andiamo in Francia, a Calais nello specifico. E allora siamo in diretta con Adele. Adele, ci senti? Sì, ciao. Perfetto, allora abbiamo diciamo fatto prima di collegarci per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici una breve panoramica, diciamo che sicuramente chi si sintonizza sui 105.250 ha familiarità, quel minimo che serve per sapere con la situazione a Calais, sapere della dell'esistenza della jungle che diciamo non è scontato e di quelle che sono le ultime, diciamo, gli ultimi avvenimenti, quindi lo sgombero, la costruzione, diciamo, del campo regolarizzato coi container, ma soprattutto il corteo di domenica. Allora io ti lascio subito la parola, se ci racconti un po' appunto quello che è successo domenica, contestualizzando sicuramente in quello che contestualizzando nel periodo più ampio che sta attraversando la Francia nello specifico, ma che poi di fatto dialoga con quella che è una vera e propria esplosione della contraddizione della frontiera in questo momento in Europa. Sì, dunque, cioè Calais è abbastanza, si sta mostrando come il punto in cui la violenza di questo dispositivo di controllo delle frontiere e delle persone che si spostano verso l'Europa, e con e lo sgombero di 1500 persone con appunto la creazione del campo recintato a cui si può accedere solo con le impronte, gli attacchi continui della polizia, dei gruppi fascisti che sono appoggiati dalle forze di polizia quasi ogni notte, lanci di lacrimogeni, insomma, è veramente una situazione di una violenza continua e sempre maggiore. E il corteo di sabato ha riunito un sacco di manifestanti sia dalla Francia che dal Belgio, che dalla Germania, dall'Italia, mentre nello stesso momento altre manifestazioni si stavano svolgendo su altre frontiere d'Europa, a Lampedusa e a Evros, e il corteo è partito dalla giungla, si è diretto verso il centro di Calais, anche per andare un po', insomma, cioè andare contro l'impedimento delle forze di polizia e del sindaco di Calais di impedire alle persone che abitano la giungla di raggiungere il centro città, perché a quanto sapevamo in questi giorni alcuni abitanti della giungla che cercavano di manifestare verso il centro, comunque di spostarsi, venivano respinti con i blocchi della strada da parte della polizia. In centro ci sono state delle provocazioni di alcuni residenti che si sono con molta probabilità legati a gruppi neofascisti, e addirittura uno di questi ha tirato fuori un fucile e l'ha puntato contro la folla, e direi che è un atto allucinante e assolutamente inaudito in una manifestazione. E nonostante questo il corteo ha proseguito senza particolari incidenti, e alla fine è arrivato in piazza. Data comunque l'energia che era stata sprigionata da questo corteo, un gruppo di circa un migliaio di abitanti della giungla ha deciso di continuare verso il porto, e per cui abbiamo continuato a manifestare, sono state abbattute le recinzioni che separano la zona degli imbarchi e di accesso dei camion, e è stato veramente, cioè, un momento di una potenza straordinaria, e l'ultima griglia che separa veramente la zona degli imbarchi dal porto, sono iniziate le cariche, i lanci di lacrimogeni da parte delle forze dell'ordine, ed è stato poi in quel momento in cui alcuni migranti sono riusciti ad occupare il traghetto, e alcuni poi militanti e altri migranti sono stati fermati. Sono stati tenuti per 24 ore in stato di fermo in Garda V, 11 militanti e 24 migranti, ma in realtà sappiamo che diverse centinaia di abitanti della giungla hanno passato la notte in centro di detenzione e sono stati poi lasciati uscire poco a poco. Mentre tutti i francesi sono stati rilasciati dopo la Garda V, le nostre tre compagne italiane sono state trasferite in centro di detenzione, che per semplificare è l'equivalente dei CIE italiani, quindi un luogo che è concepito per chi non ha il permesso di soggiorno, ed è quindi quello che ci colpisce di più è il fatto che sia una misura utilizzata contro dei cittadini, delle persone comunitarie, e oltretutto che risiedono in Francia da tempo, che lavorano qua, che studiano qua. Non è la prima volta, perché effettivamente è una cosa che è successa anche durante le mobilitazioni contro la COP21 a novembre, però è comunque, si iscrive pienamente nell'aumentata confusione giuridica legata all'età d'urgenza, in cui non sono saltati i normali dispositivi del diritto, in cui è possibile dare delle obbligazioni a chi tiene territorio a delle persone che comunque risiedono regolarmente in Francia e non a dei militanti di passaggio come succede di solito. È la prima volta che questo succede, non in occasione di un grande vertice, ma a seguito di una manifestazione che comunque era autorizzata, che comunque si è svolta in modo tranquillo e non insomma, stiamo ragionando un po' su che cosa questo significhi nel momento in cui veramente va a minare la base stessa della possibilità di fare dell'attività politica in Europa, e soprattutto contro le frontiere che sono da mesi, se non da anni ormai, il simbolo, ma non solo il simbolo, delle lotte per un'Europa che si opponga a questi meccanismi di governo. E, scusami, non abbiamo ancora informazioni legali molto più precise. Quello che sappiamo è che sarà depositato a brevissimo il ricorso contro la detenzione e l'obbligazione a quitter le territoire, però non sappiamo quando di preciso questo avverrà, quando avremo le risposte e quindi fino a quando le ragazze saranno ancora detenute. Ma assolutamente, appunto, quello che tu dicevi erano un po' anche le cose che ci chiedevamo noi, nel senso, non tanto per rendere più eccezionale di altre questa situazione, perché poi appunto è l'occasione stessa in cui le ragazze sono state prese, parlava invece del fatto che questa per tanti e tante è una quotidianità feroce, è un incubo di quotidianità, ma quella è. E, rispetto allo stato d'emergenza è la prima volta che poi diciamo viene istituito sul suolo francese, su tutto il suolo francese, perché ricordiamo che diciamo è una norma abbastanza nata, abbastanza ad hoc per contenere le colonie in Algeria, cioè gli algerini in particolare, che poi è stata utilizzata contro quelle che sono state, diciamo, le insurrezioni delle banlieue. Però appunto erano aree particolari, in questo caso è su tutto il suolo francese, e appunto come dici tu è un po', non si sa bene qual è lo scenario che prefigura, perché di fatto stiamo vedendo. La cosa che è interessante, non tanto per fare un discorso di minestrone di repressione, ma sembra proprio che di fatto quella dell'espulsione, quella dell'allontanamento o della sanzione pecuniaria, e quindi della depenalizzazione di determinate cose, e quindi del renderle appunto amministrative e quindi sanzionabili, sia di fatto uno strumento abbastanza trasversale, nel senso che vediamo che anche le lotte in Italia vengono trattate in questo modo. Forse mi viene un po' da chiederti, ci sono altri casi recenti che vi fanno pensare quale può essere l'iter? Gli avvocati dicono che ci sono buone probabilità di ricorso rispetto a la richiesta di espulsione, il fatto che siano appunto, come dicevi tu, cosa dicono un po' gli avvocati, volevo chiederti. Guarda, allora la situazione, teoricamente ci sono buone probabilità che questo ricorso venga accolto, perché comunque appunto, come ti dicevo, sono tutte e tre compagne che hanno una vita qua in Francia, e per cui adesso gli avvocati sono tutti insomma impegnati a preparare i dossier da presentare al giudice. E quello che sappiamo quasi per certo è che non dovrebbe seguire un interdizione al territorio francese, quindi diciamo l'equivalente del foglio di via, quindi loro dovrebbero essere comunque dovrebbero poter tornare e restare in Francia. E che altro? E che quasi sicuramente non andranno incontro ad una sanzione pecuniaria. Quello che insomma cioè è abbastanza assurdo è la detenzione nel centro amministrativo, e comunque cioè quello che ci sembra un po' è che in questo scenario non c'è solo una questione di repressione, ma proprio di ridefinizione dello spazio di agibilità politica. E, per quanto riguarda l'età d'urgenza, veramente c'è ancora molto disorientamento, perché molte misure si stanno facendo passare un po' in sordina, mentre la misura più eclatante, che è quella della déchéance di due nazionalità, quindi a chi ha una doppia nazionalità togliere ed è accusato di terrorismo, togliere la nazionalità francese, e questa è un po' la manovra più mediatizzata, che in realtà ne stanno nascondendo altre che sono altrettanto gravi, come ad esempio la presunzione di innocenza per le forze di polizia che sparano, ed è una cosa che è successa un mese fa davanti ad un commissariato, e oltre ad esempio al fatto che saltano tutte le regole per le perquisizioni, la necessità di avere dei mandati, e questa cosa si sta normalizzando grazie alla costituzionalizzazione delle d'urgenza, una misura che appunto è prevista per regolare, diciamo, delle crisi temporanee. E ci sembra quindi che questa cosa non riguardi solo la repressione, ma veramente la ridefinizione dello spazio che si dice democratico della Francia. Diciamo che appunto la lettura che voi date è molto simile alla nostra, perché appunto sembra che di fatto l'attacco sia all'agibilità politica, a chiunque si metta a fare politica nel luogo in cui vive. Non si può aspettare che il fatto che ci vive, che abbia delle relazioni, che abbia delle situazioni, cioè una vita con tutto ciò che essa comporta, non conta niente. Ci scrivono al 346-66-73-263. I CIE italiani funzionano abitualmente per il trattenimento dei cittadini comunitari non graditi, i rom, rumeni e non solo, in funzione di una loro espulsione. Sì, è vero, però diciamo questi sono anche paesi e comunità che sfortunatamente, non per reali differenze, ma attorno a cui si è riuscito a creare una specificità, diciamo anche di un'alterità diciamo rifiutabile dalla maggior parte dell'informato medio, e quindi sfortunatamente fa molto più scalpore il fatto che tre studentesse che sono potrebbero essere tuo figlio o tua figlia siano così trattate, guarda caso, proprio come quei cattivoni che pensi che se lo meritino. Allora speriamo che anche questa, diciamo, il crollare di una serie di griglie rispetto a stereotipi anche e supposte, diciamo, affinità piuttosto che giustezza del rimandare qualcuno da dove viene, ci sarà un motivo se si è messo in viaggio, e si muova qualcosa, anche perché appunto quello che tu dicevi, Adele, ci sembra un po' tra le cose più da sottolineare, nel senso che di fatto come questo ridefinire, questo rinsaldarsi delle frontiere poi sta ridefinendo anche gli spazi di agibilità politica entro le frontiere stesse, non solo non solo la questione. E ti volevo fare un'altra domanda: come continua, diciamo, mentre l'udienza per le ragazze sarà entro venerdì, quindi entro venerdì capiremo anche, sicuramente ci riaggiorneremo. Volevo andare un po' invece su che cosa succederà a chi dalla jungle è stato sgomberato, insomma quali sono un po' anche i prossimi passi di questa lotta, quali sono appunto le prospettive, appunto queste sono un po' le domande che credo da qui ci poniamo. Allora, intanto non so se avete avuto aggiornamenti dal processo per gli 8 che sono stati arrestati in seguito all'occupazione del traghetto. No, ancora sì. No, infatti quella è un'altra domanda, perfetto. Okay. Dunque, sono 8 persone che sono state processate per direttissima ieri, e hanno ottenuto il rinvio a giudizio il 22 febbraio. E ora l'altro nodo problematico è che i 2 militanti no border francesi sono stati rilasciati fino al rinvio a giudizio, mentre i 6 migranti sono ancora detenuti. No, per quanto riguarda le prossime prospettive, non so bene che cosa dirti, nel senso che è una situazione che è un po' in stallo, un po' sempre pronta a fare scintille, cioè gli sgomberi proseguiranno probabilmente a ritmi più accelerati, in vista anche di nuovi flussi di persone che potrebbero arrivare tra la primavera e l'estate. Si parla al momento di circa 7-8.000 persone che vivono nella giungla, e quello che abbiamo letto anche ieri, ovvero di la richiesta dei ministri europei di ripristinare i controlli alle frontiere per 2 anni, sicuramente non farà altro che rendere questa situazione ancora più instabile. Ok, forse abbiamo delle novità giuridiche, scusami. Aspettiamo volentieri, guarda, per avere novità. Scusami, no, non ti preoccupare. No, nel frattempo, vabbè, ricordiamo che Martina aveva scritto un contributo che abbiamo fatto girare dai nostri canali, sia il sito del CUA, cioè il blog del CUA, CUA Torino Blogspot, che su il profilo di Parole Ribelli iniziava con una bellissima citazione di Pessoa, gli occhi pesanti a forza di guardare, e parlava proprio degli attacchi di Parigi e ci raccontava, è un po' la compagna che abbiamo sentito ultimamente per aggiornarci un po' su quello che stava succedendo proprio a Parigi e in Francia in questi giorni, e quindi anche appunto questo sappiamo che le ragazze sono tutte e tre attive sia nel paese di provenienza che dal momento in cui sono arrivate in Francia, quindi anche un po' il discorso appunto della limitazione dell'agibilità politica sicuramente. Adesso senza voler fare troppo complottismo, però parliamo appunto di persone che comunque dove vanno fanno qualcosa di scomodo, perché se scomodo è dare solo il mettersi attivamente a lottare per i diritti, in questo caso non appunto di tutti e tutte, allora di fatto sicuramente Martina, Valentina e Ornella sono degli elementi scomodi per tanto la polizia italiana quanto la gendarmerie francese. Non abbiamo grandi novità legali in realtà, se non che il ricorso sarà depositato oggi, ma non sappiamo quando ci sarà il processo ancora. Per legge dovrebbero essere nei primi 5 giorni di pensione. Quello che le compagne ci dicono, che tengono a sottolineare dal CRA, è di non dimenticarsi comunque qual è la violenza e la storia di questi luoghi e tutte le persone che ci sono dentro, che non hanno accesso alla rete di solidarietà e alla rete di supporto legale che stanno avendo loro. Assolutamente. Niente, passiamo il messaggio chiaramente. No, infatti speriamo, il discorso non è sulla cosa anche su cui noi ci tenevamo molto a ribadire, non è tracciare una differenza fra le persone, ovviamente purtroppo una differenza c'è, perché se è vero che lottiamo è perché c'è una differenza grossa di classe, di razza e di genere, però appunto non è... è una differenza tracciata da quelle mura, le mura entro cui sono rinchiuse tanto le ragazze quanto tutti gli altri, che anzi invece di rendere straordinaria una situazione che appunto per tanti è ordinaria, cerchiamo di dare visibilità anzi attraverso la rete di solidarietà che le lotte poi hanno creato intorno a queste ragazze per rilanciare un po' su anche smontare qualunque idea del fatto che possa esistere una buona accoglienza. Non può esistere una buona accoglienza, del resto l'abbiamo, perché l'unica pubblica, diciamo, accoglienza che riconosciamo è quella della solidarietà, è quella appunto tra persone che si mettono in gioco insieme. Lo diciamo da mesi, lo diciamo da anni, l'antirazzismo ora più che mai non è un valore morale delle anime belle, è l'unione concreta degli sfruttati contro chi, certo, di fatto è assolutamente una necessità, non tanto un percorso verso la redenzione. Allora continueremo a indagare sicuramente appunto questa contraddizione, quella delle frontiere, quella dei flussi di persone che non accenna minimamente a rientrare, sono anche piccole frontiere interne quelle che si vanno creando, la disparità tra il sud e il nord Italia per esempio, ecco, senza voler fare paragoni troppo forzati, ci sono comunque appunto confini sempre più e meno espliciti che comunque fanno sì che poi ad alcuni siano date determinate possibilità e ad altri no. E allora sicuramente continua a farsi interessante la situazione, sicuramente appunto continuiamo a seguire la vicenda delle ragazze, ma in questi giorni in cui si consuma, e continuiamo a tenerci assolutamente con gli occhi e le orecchie bene aperti per tutta la situazione di Calais, e ci auguriamo che per ogni minuto di reclusione di chi è dentro questi maledetti centri di accoglienza passino e rompano più frontiere possibile tutti coloro che sono riusciti a sfuggire. Adele, noi ti ringraziamo e ci riaggiorneremo sia appunto, come dicevo, sulla vicenda specifica, ma anche e soprattutto sulla questione più generale. Grazie mille per la disponibilità e continuate a lottare e continuate ad aggiornarci. Ciao. Como rata, diferencia asesina. La prepotencia extermina. En esta guerra el hombre solo a sí mismo se asesina. La bomba mata, la guerra mata. El hambre mata, el hombre muere como rata. La indiferencia asesina, la prepotencia extermina. En esta guerra el hombre solo a sí mismo se asesina. Caos genérico, pánico satánico. Se extiende por el mundo un estado problemático. Tráfico vandálico, bélico y cínico. La esperanza de este mundo desterrada de un mordisco arisco. Y no puedo, no quiero, me niego y reniego. Hace parte de este juego cruel manejo del manejo. En el cual, en forma elemental, cuidarse el propio pellejo es la meta principal. Tal situación fatal, crucial, social. Se vuelve demencia al final, puñal, brutal, intencional a la moral, que patéticamente poca queda. La dignidad un sorete pisoteado en la vereda. La honestidad se compra con tan solo una moneda. Y ante tanto desastre no hay justicia que proceda. Veo como mucha gente proclama querer un cambio en lo teórico. Y se va al mazo cuando tiene que jugársela a lo práctico. Veo como la hipocresía es el reflejo de nosotros, la burguesía. Solamente si es nuestro culo se toca, nos alzamos en rebeldía. Y luego la furia desaparece mientras día se va como vino un día. Aquí no hay espectadores, somos todos responsables directos. Y contra cosa la política sin un reflejo nuestro. Un monstruo sin rostro que camina sin rastro. Lo hemos creado nosotros mismos y ahora nos da asco. Se nos ha escapado de las manos. Ahora mira dónde estamos. En este suicidio colectivo los seres humanos. Chocando y chocando, chocando contra lo mismo. Cayendo y cayendo, cayendo en un mismo abismo. Qué trágico que la conciencia no nos salve. Yo quiero ver qué va a pasar cuando la naturaleza hable. Chiesto niente a parte l'odio, è tutto ciò che serve, il respiro di chi ha poco. Non ho mai chiesto niente a Dio, da quando ho percepito che ogni mia preghiera era solo un soliloquio. Sto freddo sulle spalle, non promette bene. Tutta sta merda muta lupi in iene, sai quanti ne ho visti? Carne cruda in vendita per strada, crescono coi sogni e crepano con gli incubi, chiusi in casa. Giura di non perderti fra falsi dei, guardali, ognuno in fondo è sceso a un compromesso. Bada a non mostrarti per ciò che non sei, non tanto per gli altri. Rischi di convincere te stesso, siamo pazzi, più dei pazzi. Cani in strada senza manco più traguardi, solo passi e passi. Falsi, più dei falsi, così a fondo che sinceri sono diversamente bugiardi. Cambi, nei miei panni sei costretto, quando l'anima è un vestito che sta stretto, devi spogliarti. Metti la via apposta in un cassetto, su un foglio fa lo stesso, basta che la salvi. Dimmi che sapore c'ha, stare nei miei ieri e fantasmi dell'aldiqua. Quando i versi fanno pam pam pam pam pam pam pam pa. Fanno pam pam pam pam pam pam pam pa. Dimmi che sapore c'ha, stare nei miei ieri e fantasmi dell'aldiqua. Quando i versi fanno pam pam pam pam pam pam pam pa. Pam pam pam pam pam pam pam pa. Neffa dove stai, devo parlarti, devo chiederti se il sole arriva o resti a congelarti, cazzo. Sto freddo qua non passa, io non passo più una notte senza riscaldarmi con un po' di ghiaccio e Jack. Vecchie facce in testa come foto, fosse un videogioco, tornerei a pestarle solo per lo sfogo. Back to chapter one, giusto per vedervi là, sputare sangue come ho fatto per merito vostro. Ah, frasco. fottuto amico mio, manco hai detto addio. Sei scomparso come ha fatto Dio, come il padre che m'ha messo al mondo. Bastardo, dove cazzo stavi quando il buco in pancia si faceva largo? Quante stronze hanno i pezzi miei, tutto ciò che ho fatto non so manco se lo rifarei. Ho dato un braccio quando mi hai chiesto di più, quando dai una mano chiediti se vuole alzarsi o se tirarti giù. Dimmi che sapore c'ha stare nei miei ieri e fantasmi dell'aldiquà, quando i versi fanno pam pam pam pam pam pam pam pa, fanno pam pam pam pam pam pam pa. Dimmi che sapore c'ha stare nei miei ieri e fantasmi dell'aldiquà, quando i versi fanno pam pam pam pam pam pam pam pa, pam pam pam pam pam pam pam pa. 11:58 sulle libere frequenze di Radio Blackout. Per chi si fosse appena sintonizzato, siete all'ascolto di Parole Ribelli, che vi accompagna ancora un'oretta scarsa, perché il GR comincia sempre puntuale su Blackout. E allora andiamo avanti con la puntata, diciamo interessante, ma diciamo scevra di informazioni specifiche, non tanto. Ricominciamo. È stata molto interessante la diretta con la compagna dalla Francia. Certo è che diciamo è evidente la difficoltà, non tanto sua quanto anche nostra, nel andare a ad analizzare una situazione di cui lo scenario sta diciamo cambiando, non tanto perché appunto ripetiamo sia eccezionale quello che accade ora, quanto perché proprio in una normalità, una folle normalità, che è quella dell'accoglienza, che è quella della che è quella dei CIE, dei CARA, diciamo quelli che appunto sono di fatto centri di detenzione amministrativa, si somigliano e sono a tutto e per tutto delle prigioni, se non di più. Di fatto è una questione che esiste da un bel po', diciamo, dietro cui tanti e tante costruiscono percorsi di lotta e di solidarietà. E allora continueremo sicuramente ad occuparcene, appunto, perché anche quella delle frontiere, quella dei flussi di persone, è una contraddizione che sta diciamo mettendo in difficoltà il sistema Europa. E allora invece andiamo a Torino per parlare un attimo di quello che sta succedendo in Accademia. Diciamo che le informazioni che abbiamo, purtroppo non siamo riusciti ad avere contatti e intervistare nessuno dell'Accademia, però la situazione sostanzialmente è questa: si vuole far pagare le tasse, la tassa dell'Accademia, anche a chi non anche a chi non dovrebbe, anche a chi per questioni di reddito non avrebbe da pagarle. La questione qual è? Appunto che si vuole sostanzialmente quei pochi spicci che la regione ancora allunga agli studenti con Edisu, se li riprende l'Accademia con gli interessi, perché non diciamo una borsa di studio non copre tutta la retta, e quindi questo la dice lunga su come sta messo il sistema di borsa di studio a Torino. Per quanto riguarda l'Accademia, perché l'Accademia non ha una fasciazione interna contributiva, comunque. Scusate, il discorso qual è? Più o meno ti do 800-900 euro di borsa di studio e tu mi paghi 1.500 di retta, oltre ovviamente il fatto che è una presa in giro. Il discorso è anche che perché si prefigura questo scenario un po' il discorso ci sembra si colleghi, ma sarà tutto da verificare, anche a una manovra, diciamo, che diffusione tra Accademia e Conservatorio come terzo polo, terzo ateneo torinese, nel senso che sembrerebbe proprio che l'Accademia si stia diciamo garantendo i fondi per questa operazione e che vengano direttamente dalle tasche degli studenti, dalle tasse e dalle tasche degli studenti. Poi al di là di se questo collegamento sussista o meno, a noi interessa

voy al viento que sale por mi boca y se convierte en movimiento, sonido que vibra y siento. Si el corazón quiere cantar, ¿qué puedo hacer? Ayudar a que fluya en el viento que sale por mi boca y se convierte en movimiento, sonido que vibra y siento. Carrera, derrumbemos las fronteras, hagamos la primavera. Pon tus dedos en mi tierra, que no nos gane la guerra, que la sangre que nos nace fertilice flores fieras y el silencio el amor que la renueva. E chi mi chiama? E sa il mio nome? E sa il mio nome? E chi mi vuole? E chi mi vuole? E dove dove? Suona una voce nell'afa della mattina, bagnata d'aria marina esalata dalla battigia sbarcata da spume d'ombre che infondono nuove forme, confondono fonti d'onde con torri d'aria salina. Se la voce viaggia, si infila dentro a una stanza che guarda dritta alla spiaggia, poi sfiora una stufa in ghisa, riaffiora sempre più alta e danzando con calma salda l'incalza la faccia stanca del buon Carlo Caravita. Caramini, il signor Carlo pertanto si leva in slancio, lo osserva a soffitto bianco, poi il quadro di Santa Rita. Sua moglie l'ha presa al mare, partita senza tornare, lasciandolo a cuore infranto col corpo che fa fatica. Di lei amava la gioia particolare, il taglio degli occhi chiari, tacchi vestiti uguali, quando ballava il tango muovendo lenta la testa o cantando dalla finestra dove ardevano i gerani. E lei amava viaggiare, avvistare terra, il nome suo Annarella, scritto su alcuni scavi. E il sorriso lieve lieve invadeva le gote accese, salendo la passerella che portava sulle navi. Se la guardava si smarriva lei, bevendo gli occhi suoi, chiamando gli occhi miei. Vuole scoprire dove la voce di quelle note che sembrano di Annarella, la voce della sua bella. Rincorre il suono sul filo delle pareti, doppi vetri, pavimenti, e la voce gli dice seguimi. E Carlo la segue fuori, là fuori brillano le siepi, ne segue tracce fra macchie di lecci, lauri e ginepri. Il nostro la segue a piedi tra piazze, case, pievi, strade fatte di pietre, reti appese ai vigneti, tra i terreni pieni scelti, sentieri scoscesi, piedi che portano un mare fatto di linee bianche e turchesi. Carlo di fronte al mare sul greto di sabbia e ghiaia, la luna di madreperla gli lancia un'occhiata ignara, la vede una barca ferma che porta una forma snella, la forma di Annarella segnata dalla rugiada. Carlo sorride ai tutti, la fronte sugli occhi asciutti, le stringe la mano forte pronto per la traversata. All'alba Carlo non c'era, nessuno lì se ne accorse, là il vento muoveva i giunchi, i loro fiori color gialla. Amore mio, tu non sei qui con me, tu non sei più con me, tu non sei qui con me. Maggiore, dove dove la tua voce, dove dove suona altrove, dove Amore mio, tu non sei qui con me, tu non sei più con me, tu non sei qui con me. Voce, dove dove la tua voce, dove dove suona altrove, dove Sentivo il mare gridare forte il mio nome, nel nome di un altro amore, nel fuoco di un'altra unione, nel gioco di spuma e sale, scappare da una prigione, sentirmi ancora chiamare, voltarmi per poter dire no. Ma poi la noia, la stasi, la nostra unione che quasi si era tagliata in due parti, quindi divisa in due fasi. Avrei dovuto chiamarti davanti a un bianco di piassi per dirti quanto mi manchi, ma poi l'ho fatto no. Amavo il sangue che porta inchiostra la penna, in questo mattino nostro d'agosto volo su Vienna. L'aria che mi scotenna, la bocca che tentenna, dove muore la voce, alla foce della Senna. Io vestito male, di stracci presi al mercato, i lacci toccano il suolo, il volo era terminato, il peggio l'ho meritato, in forma ma raffreddato, il tuo nome l'ho gridato, e l'eco mi rispondeva sì, sì, sì. La brezza marina carezza la mia pelle, spelle la sua tossina, cara portami in cima, strappami dalla riva, ora trovo la pace nella benzo di Azepina. Clima del litorale dove la sabbia danza, il vento di maestrale che soffia con eleganza, ora tolgo le scarpe ed accorcio la distanza, come Giorgio De Chirico, Ulisse in una stanza. Oh, quello che manca per avere ciò che serve, rosso d'arcobaleno, veleno di un'altra serpe, usalo come china nel nostro amore di epistole, battiti e metriche in extrasistole, Vedo l'amore che passa, l'amore che viene. Sento chiamare il mio nome da 12.000 diverse sirene. Poi metto un piede nel mare, quell'acqua di sale mi gela le vene. Corro il più forte possibile, canto un richiamo come le balene. Lei che mi stringe la mano, vuole portarmi lontano. L'acqua già sopra il mio cranio, non ho saputo schivarne il richiamo. Ora le gambe stanche, avrei bisogno di branchie. Non basterebbero neanche per dirti quanto ti amo. Ora il mio corpo viola, di nuovo arriva senza parola. Sento possarsi i gabbiani sulle mie mani, la fine è ora. Steso sul bagno asciuga, la pelle nuda, la sabbia sfiora. Fine di questa storia ed è la stessa colonna sonora. Sì. Amore mio, tu non sei qui con me, tu non sei più con me, tu non sei qui con me. Dove, dove, la tua voce, dove, dove, suona altrove. Dove, amore mio, tu non sei qui con me, tu non sei più con me, tu non sei qui con me. Dove, dove, la tua voce, dove, dove, suona altrove. Dove, 16 su 105.250. Allora, abbiamo ascoltato le Rima Roja en Venus, per chi non le conoscesse, diciamo gli altri erano un po' più conosciuti. Abbiamo sentito Murubutu e prima non mi ricordo. E comunque andiamo avanti con la puntata di quest'oggi e finiamo con presentare l'appello per la libertà di studiare. E allora appunto come collettivo universitario autonomo, ma non soltanto, abbiamo fatto partire questo appello perché appunto per segnalare come di fatto si stanno trattando le lotte in questo momento in Italia. E allora vado un attimo a leggervelo così da spiegare un po' che cosa si va chiedendo. Siamo studenti e studentesse dell'Università di Torino e con questo appello chiediamo che l'Ateneo, in tutte le sue componenti, prenda una posizione chiara a favore del pensiero critico, della libertà d'espressione, del diritto inalienabile a formarsi, studiare ed esercitare dissenso. Da mesi ormai alcuni studenti di questo Ateneo viene negata la possibilità di partecipare alle normali attività della vita universitaria in tutti i suoi aspetti, perché sottoposti a misure cautelari di vario genere. Obblighi di dimora nei comuni di provenienza per gli iscritti non residenti, obblighi di firma o rientro a casa in fasce orarie prestabilite, arresti domiciliari. Ad essere sotto accusa è la loro partecipazione a manifestazioni di dissenso politico e a momenti di mobilitazione e auto-organizzazione, in alcuni casi anche all'interno della stessa università. Migliaia di persone in questi anni hanno protestato contro politiche inique e miopi, contro strategie di uscita dalla crisi dai costi insostenibili, tanto in termini economici quanto ambientali e sociali. Valeria, Luca e Mattia, tre studenti iscritti all'Università di Torino, rientrano tra queste persone e in particolare tra quei giovani che non hanno nessuna garanzia per il proprio domani, che pagano una crisi feroce di cui non hanno responsabilità e che ogni giorno continua a restringere la loro possibilità di avere un futuro dignitoso. Per questo hanno scelto di fare di ogni aspetto della propria vita ambito di riflessione critica e di presa di responsabilità in prima persona, dalla richiesta di spazi per gli studenti dentro l'università che frequentano, alle lotte ambientali per l'aria che respirano e il territorio che abitano, fino al rifiuto delle retoriche razziste e xenofobe che seminano odio. La gestione e la messa a tacere del dissenso, corrisposte all'insegna della militarizzazione, stanno diventando una pratica pericolosamente ordinaria fuori e dentro l'università. Un'escalation securitaria, cui negli ultimi mesi abbiamo assistito anche all'interno del campus Luigi Einaudi, con il ripetuto ingresso e intervento delle forze dell'ordine dentro il complesso universitario a difesa di gruppi e organizzazioni di stampo dichiaratamente fascista e xenofobo. Le misure cautelari cui Valeria, Luca e Mattia sono sottoposti inoltre dovrebbero essere adottate dall'autorità giudiziaria durante le indagini preliminari o nella fase processuale al fine di impedire che nel tempo necessario allo svolgersi del processo venga in alcun modo ostacolata l'attività giudiziaria. Ci chiediamo come il poter frequentare delle lezioni all'università, anche non obbligatorie, sostenere esami, avere la possibilità di vedersi e confrontarsi con i professori e colleghi, possano essere ritenuti ostacoli a un'attività giudiziaria che si vorrebbe rieducativa e che viene invece impiegata in un'ottica tutta punitiva, arrivando a negare il diritto a formarsi, esprimersi ed esercitare liberamente il dissenso. Per questo chiediamo una presa di parola forte e inequivocabile da parte del mondo accademico. Crediamo che il ruolo dell'università non debba essere quello di reprimere le voci contrarie, ma invece di considerarlo un elemento importante nel confronto tra visioni differenti, nel preservare la libertà di un sapere critico. Affinché a tutti sia garantita la possibilità di studiare, chiediamo di sottoscrivere e far circolare questo appello. E allora appunto i fatti in questione, ricordiamo, Luca e Mattia e Valeria sono tre studenti dell'Università di Torino a cui al momento viene negata la possibilità di studiare, la possibilità di mantenersi, la possibilità insomma più o meno di qualunque cosa. Sono sottoposti a un regime più peggiore del carcere quasi, perché poi dentro alle carceri si sa la solidarietà tra le persone poi è tanta, diciamo, nonostante l'apparato repressivo ci metta tutta l'energia che ha nel rendere i più inospitali e il meno dignitosi possibile le strutture detentive che appunto dovrebbero semplicemente scomparire, poi di fatto almeno si hanno appunto altre persone, ci si raccontano storie, si passa momenti insieme, comunque la forza la solidarietà è tangibile in una feroce quotidianità che però viene condivisa insieme. Bene, Luca, Mattia e Valeria non hanno nessuno intorno, sono sottoposti a regimi piuttosto stringenti di limitazione della libertà, ma quello che ci interessa è anche andare a creare un minimo di dibattito interno a coloro che credono in questi strumenti di giustizia, perché se è vero allora che per qualcuno, diciamo, questa giustizia abbia ancora qualcosa da dire, questa struttura giudiziaria possa garantire una qualche giustizia, bene, noi non solo non ci crediamo, ma puntiamo anche il dito contro chi non si prende neanche la responsabilità di quel che fa. Insomma, sono professioni strapagate che non hanno un minimo di deontologia professionale, perché poi appunto il passaggio finale dell'appello sulla l'uso punitivo di queste misure non è tanto a voler appunto non vuole fare mettersi nell'ottica di render di legittimare nessuna di queste istituzioni. Dopodiché purtroppo nel momento in cui ci toccano, almeno che lo facciano con il loro vero volto. Quindi abbiamo sottoposto questo appello a tantissimi e tantissime professori, professoresse, insomma parti, componenti dell'Ateneo tutto, perché non vi è una parte che non riguarda questa situazione, dagli studenti ai lavoratori dell'università. Tutti ricordano la scena di pochi mesi fa della militarizzazione totale del campus Luigi Einaudi. Chi vi parla era presente, e è necessario che l'Università di Torino o chi per lei, insomma, chi ha mandato quelle camionette risponda si prende la responsabilità di quel che ha fatto. Fuck your wifey, run up on you, hyphy, holding a knifey. You ain't a soldier, boy, I'm riding with ice tea mixed with vodka. Sitting shotgun with the Glock, punk hot, taking hip-hop back. Shoot up your commercial block, pop, pop, pop. You are not rugged, you should stop rapping hops. You are not hip-hop. You want some faggots, you're dancing like a bitch. You sold out Herkinola at work, wasted for talent with bullshit. Try to challenge this, we can fight, gee, I rep my shit. Head up, dead up, what up, get wet up, or cut up. Where you wanna meet up to get beat up. I'm not bigger than the drama, don't get me mixed up, I'll battle Jigga tomorrow. I got a reputation for bashing the face, and even when I make my millions, I'll be down for confrontation. I rap for the kids in buildings, with little education, urban children, urban you dailies, our occupation. Suburban kids can get with it too, but do your history. Know what you're listening to, don't be a drone. Or I'm dissing you. Rap clones, I piss on you biters. Don't make me smack you home. You're weak like a writer. Don't sleep on me like itis. We're street fighters and we keep heat right beside us. In case you're too pussy for a fair one like Commodus. What up, Paul? Why you turn bourgeois? You used to be raw, now you a whore. That's what you call mature? I'll stay an immature grown man, rhyming hardcore for fans. My indie is major. I hustle harder than the brain muscles of Master P and Russell combined. Do what it takes, even if I gotta bust you with a nine. Oh, I am a nightmare. You better pay homage. I'm on some combat shit like early day caucus. How you identify a body from Nate College? 50 dudes, park side, killer blade sharpness. Philly soundtrack, able forever. I will catch a fucking homicide, lay him whoever. DJ Miz, he will fucking slay him and sever. If you think that either one of us is playing whatever, fuck you. Go up in your face with the open hair pliers. Old school like sneakers hanging from overhead wires. Y'all just getting warmed up, pussy, we set fires. We the hardest rappers that's living, but y'all biased. Load up the trunk with the motherfucking arsenal. I'm about to spray your fucking wig like a barbadoo. I'ma lose cannon, it's no telling what I'ma do. Shooting innocent motherfuckers like they was I'ma do. I am a nightmare. And when you say it like that, it shows a different side of you, reminding you of the rights that are now denied to you. How elements that compose the sun are inside of you, but you didn't come here for knowledge and wisdom. America rubs its pussy to dead children. Truth, no modesty, no apology owed to you. Go home and let the cable TV wash over you. Yo, your life's a microcosm of the world's problems, but you don't even have the perspective of the barely human beings who claim we were brainwashed by hip-hop music, but now pop culture propaganda is how they use it. Crack them with a blackjack on a necro track, snatch a chain and hump the dance floor, I'm taking it back, bitch. I am a nightmare. Terrorist network in the world is led by Islamic. What? Hold up. Honor, forgive me, Baba. Transformer machine life. Metal dreams pulling Geppetto strings. The last arrows to blast that. Rhyme immigrant flashback. Lyrical sad trap. There's no way I'm fearing you. Double agents clearing through bag harassment. Border cop, jet lag and asthma. Wet bags of grass get sent back to Basra. Hussein, a straggled bastard. Tracks bang when blasted. Like the Madrid bombings. I'm sick of this shit, mama. I'm leaving Iraq's missile him. War music, pray for me cause I'm torn moving. Why would I ever leave? Never been better be. My eyes bleeding, heart shedding tears. Knowing we were bred in fear. Given this uneven start, believing the end is near. Whispers in a tender ear, devil's near, listen here. I'll leave it at that, yes I'm in. Yes I made, stress I made. The sweet lips of my mama singing best I made. Flashback to bags packed, dusty footsteps. Looking past tracks of the mess I made. Futures hanging in the balance on some chess I played. Getting checked, what can I leave it at that? Yes I made. Yes I made, stress I made. Be the last Arab left to profess my aims. Till I'm the center of attention like the letter N. Get a pen, classy Bedouin. Half me resident, Canadian, Iraqi, medicine, Arabian, Apache. I'll leave it at that. Listen, Cobra Commander with visions of grand mission. Abandoned kissing my land with a missing advantage. You wanna listen to Bannon? Like the FCC, we setting the standard. What a tangled web we weave. Tell me where Osama at? Who cares if Obama's black? I'll leave it at that. Listen. And why'd you bomb a rap? Mic check like Jordan 1. Store your guns, brother. There's more to come now. Contradictions like Oliver Norm speeches. Herbal chronic victim, I have it at arm's reaches. My mom screeches at the sight of Islam's teachers. Palm reading, bomb heaving, law needing our freedom from an evil empire's eyes. Tentacles, apartheid, genitals, and barbed wire rendables, landscapes. Not too far from the Seminoles, Cherokee, almost some Arab American therapy, Superman cape, so halfers and handshakes. With brothers, I stand straight. I'll leave it at that. Yes, I may. Yes, I may. Stress, I may. Be the last Arab left to profess my aim. It's your brother, the narcissist, Omar Effendi. We are Hobbs and Johnson. Walkers from the background. Items all over the world, man. I'm leaving the rats. Missile hymns. We are facing the end of the destruction of the Palestinian people by the Israeli forces. We are in a situation today that not only the political and the economical infrastructure was destroyed, Israel is destroying the neurological system of this society. لازم نتغير والله ما عاد في خيار. يلي بهمه مستقبل العالم كله إلا لا ضرر ولا ضرار. من عمر عمر الفاروق لثورة عمر المختار هالجملتين اللي أيدوا الازدهار. فعمي خد قرار مشان ما تصفي لوحدك بالغبار وع سفينة الحياة بين الجزيرة والمنار. يلي محتار يطفي تلفزيونه واللي ما بيعيش بدونه لك الله يكون بعونه. قرن 21 بدت بالزلازل عواصف وقنابل دمرت أبراج بابل. دم العرب لسه سائل دائما فيش حدا سائل وهيدي مشكلتنا. فتنا بالفتنة ونسينا أسرتنا. لا تكون أناني فكر بخيك فكر ببيك وتذكر يلي بحكي زيك حتى أولادك وأحفادك يمشوا بفيك. وإذا حاسس صدرك عم يتضيق خذ لك نفس خيك وقوم تغير. بمنعني بشجعني اعمل العكس. انا اخت رجال بس انا صاحبة حق. كيف بدي اقول عن حالي مقاتلة الحرية اذا ببعد عن التحدي اذا بخاف من كلمة لا. واجتمعنا مثل توقيت الغرب دايما مأخر. كل ما بناخد دفشي لقدام بدفشونا 20 قرنة ورا. بالنسبة للفلسطيني هالحالة بتحزن اكتر من شهر تشرين الثاني. انا عندي امل بالانسان بس الحكي ما بفيد ما بجيب غير الحلم. انا عندي ثقة بالانسان بس الحكي ما بفيد ما بجيب. احنا بين احتلالين احتلال المخ احتلال البلاد. وفي الشك انه طريق الى المساواة معقد بس مستقبلنا بيبدأ لما بنحرر نفسنا من العبودية العقلية. Supporting the Palestinian in an active way, not sitting in this rituals endless discussions. We want to uplift the ability of our expression and to deepen our own values to be able to reach you in English, Arabic, cinema, photography, theater. إنه الفرد يكون عنده حرية الخيار. We have to go to stand up again on our feet. I'm calling for your support. :36 Parole Ribelli va in chiusura e anche questo martedì vi lascia per dirvi arrivederci alla settimana prossima. Rimanete sintonizzati sui 105.250, le libere frequenze vi accompagneranno per tutto il giorno. E allora prima di salutarci definitivamente però segnaliamo 2-3 eventi della settimana. E allora partiamo diciamo da venerdì 29 gennaio, Una luce per Ciro, fiaccolata a Torino. E venerdì alle ore 20:30 a partire da Corso Grosseto ci si vedrà tutti quanti fiaccola in mano per reclamare giustizia per Ciro Lomuscio, che è stato investito il 29 dicembre 2015 da un'autocivetta della polizia che si lanciava a velocità. A una velocità folle in Corso Grosseto. Molti testimoni hanno visto che semplicemente quello che è successo è che era fuori controllo la velocità della macchina, che ovviamente per tutelare i suoi chi vi era dentro ha sacrificato senza pensarci la vita di Ciro. E allora basta con l'impunità della divisa. Tutti quanti il 29 gennaio alle ore 20:30, a un mese dall'accaduto, ricordiamo Ciro e ricordiamo che non esiste per noi un mondo in cui ci si può prendere così una vita tanto per disattenzione solo perché si indossa una divisa. E andiamo poi a sabato, anzi tra venerdì sera al centro sociale a Scatasuna ci si vede per un benefit per il Senza Pazienza. E sabato 30 gennaio alle 15 in Piazza Castello per festeggiare un anno dalla liberazione di Kobane, ma anche per non stare in silenzio e per denunciare la repressione messa in atto dalla Turchia e sostenere la lotta rivoluzionaria che ha portato alla proclamazione dell'autogoverno in molte città curde del Bakur. Ricordiamo appunto il Kurdistan turco che in questo momento, come tanti sanno, sta vivendo un momento di fortissimo attacco della popolazione, insomma la resistenza messa in atto da coloro che portano avanti questa lotta è un qualcosa di straordinario e che è giusto che appunto si sostenga con ogni mezzo possibile. E allora ci si vede sabato alle 15 in Piazza Castello. Ricordiamo anche che per i giorni della Merla il popolo Notav dà appuntamento in Valsusa. Con questo Parole Ribelli vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo martedì e vi invita ancora una volta a rimanere sulle libere frequenze di Blackout 105.250.